Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Italiani brava gente, italiani dal cuore d'oro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Di santi, di poeti, di mafiosi e navigatori. Ma tutti vi vorrebbero tale di la Montessori. Buongiorno e benvenuti a Luogo Comune, la trasmissione radiofonica che analizza luoghi comuni, motti, aneddoti e modi di dire per poterli confermare o smentire con l'aiuto di un ospite. In studio a tenervi compagnia per la prossima mezz'ora Valentino De Luca. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta, e se vi piace invece cinguettare ci sta Twitter @LuogoC, oppure se siete più grafomani e avete consigli, suggerimenti, pareri per i prossimi luoghi comuni, se vi è piaciuta questa puntata insomma che state per sentire, scrivete a luogocomune.radio@gmail.com. Il luogo comune che tratteremo oggi è: per una donna è più difficile far ridere. Al cinema e in TV si moltiplicano ruoli femminili che propongono una visione non stereotipata della donna, nel serio ruolo di moglie e mamma, per presentare invece un tipo di donna più simpatico, dinamico, dalla battuta pronta, per così dire. La donna comica e divertente attira sempre di più e nascono diversi laboratori teatrali che insegnano anche le basi del mestiere. Però per una donna è più difficile far ridere. Come si pone nei confronti, per esempio, di sesso, morte, chiesa, società, chi per secoli in realtà è stato un po' oggetto di attenzione di queste istituzioni, ma non proprio benevolo. E poi è vero che una comica che dice una parolaccia in più viene subito tacciata di volgarità rispetto ai colleghi maschi, visto che insomma la carne al fuoco è tanta, perché l'argomento è veramente interessante. Ne parliamo in collegamento telefonico proprio con un'esperta, potremmo dire, ovvero Paola Minaccioni, attrice televisiva, teatrale, cinematografica, che abbiamo imparato a conoscere sul piccolo schermo grazie a Parla con me, Bra, Stiamo tutti bene, al cinema, dove di recente è stata definita la nuova musa di Ospetek per le sue partecipazioni a Cuore Sacro, Mine Vaganti, Magnifica Presenza, e dal prossimo Allacciate le cinture. Chi non ce l'ha presente, ma per quei pochissimi, visivamente sicuramente invece ne riconosce la voce, perché oltre a 610 in compagnia di Lil Greg, la stiamo recentemente sentendo nella trasmissione Il ruggito del coniglio. Buongiorno Paola. Buongiorno, allora io me ne vado, tu hai detto tutto, ti ringrazio. Senti Paola, iniziamo qua, veramente c'è ancora tanto, c'è parecchio da dire. Iniziamo proprio dagli esordi. Come hai scoperto la tua attitudine comica? In classe eri la più simpatica, ti piaceva catalizzare l'attenzione dei compagni, fare imitazioni, battute? Oppure una cosa sì, che è nata più grande quando sei... No, esattamente così, come hai detto tu. In classe, al liceo, io tenevo banco facendo le imitazioni dei professori. Devo dire, è una cosa che è nata spontaneamente, insomma, nelle assemblee di istituto normalmente praticamente facevo lo spettacolo. È nata così, insomma, per gioco, in classe, prendendo in giro i miei professori. E poi dopo, subito dopo, ho cominciato a imitare un po' la Marchesini, che è stata anche la persona che mi ha, forse più di tutte, insomma, la prima attrice che ho amato, che ho seguito, che mi ha dato un punto di riferimento. E poi dopo il resto, insomma, sì, è iniziata un po' al mare, molto in sordina. Senti Paola, una volta che hai intuito, diciamo, questa tua attitudine, la risata, la comicità, diciamo, quali sono state le difficoltà che hai incontrato per importi in questo mondo, ecco? Se ce ne sono state, se non è stato tutto semplice. Quanto dura il programma? Dura una settimana, no? un po' di meno. Di tempo? Ma guarda, no, le difficoltà sono quelle che abbiamo fare. Qual è la tua cifra? Perché non è che uno nasce e già sa di cosa vuole parlare. Quindi prima di tutto la scuola di recitazione, io ne ho fatte due, una un corso regionale, l'altra la Scuola Nazionale di Cinema, il Centro Sperimentale di Cinematografia, sicuramente mi hanno aiutato a capire quali fossero le mie corde, di che cosa potevo parlare, e poi mi sono anche molto sperimentata in ruoli non comici, perché ho fatto delle scuole prestigiose, ho studiato per fare l'attrice, quindi questo mi ha dato una possibilità in più, devo dire, rispetto a un comico che magari ripete la stessa maschera in ogni ruolo che fa. E quindi la prima cosa e la prima difficoltà è capire tu chi sei. E poi dopo la seconda difficoltà è mantenerti col tuo lavoro e quindi poi per mantenermi io ho cominciato a fare cabaret. La mia strada è stata segnata molto dal desiderio di vivere di questo lavoro, quindi mi sono lanciata nel cabaret, anche se contemporaneamente facevo teatro di drammaturgia contemporanea, avevo una mia compagnia, quindi facevo teatro di ricerca a Milano, però ho iniziato a scrivere perché per il cabaret, pensando che intanto era la forma migliore per mantenersi, e poi perché speravo che attraverso la TV io mi sarei potuta fare strada, insomma, quindi è stata la scelta di voler apparire e diventare un nome. Poi ho avuto la fortuna, devo dire, di fare la TV la migliore che c'è stata, secondo me, cioè quella con la Dandini, con la Jalappas, con Guzzanti, insomma, io ho avuto l'onore poi di fare la TV, ecco, Neri Marco Re, sempre con persone che stimavo già da piccola e tu hai sempre diciamo trovato il tuo canale comunicativo a seconda delle tue risate, oppure quando hai fatto un certo salto di qualità magari ti hanno affiancato degli autori che hanno un po' cambiato il tuo tipo di comicità, oppure insomma è sempre nelle tue corde quella degli esordi, ecco, ma guarda, la comicità la devi avere, cioè il tuo punto di vista ironico sulle cose deve esserci, perché se non hai un punto di vista ironico è difficile che tu possa far ridere, perché devi pensarle le cose che ti fanno ridere, quindi sicuramente io sono sempre stata autrice di me stessa. Poi quando ho incontrato degli autori bravi, sicuramente ho fatto delle cose ancora migliori, cioè Alessandro Rossi, Stefano Bises, la stessa Dandini, ho scritto con Saverio Raimondo, delle persone che mi hanno sicuramente dato una grossa mano, Marco Terenzi, insomma il mio percorso. Poi ho incontrato Paola Cannatello, degli autori con cui ho sviluppato delle idee, la maggior parte delle volte le idee erano le mie, perché magari nasce da un punto di vista tuo su una cosa che ti ha fatto ridere, una persona che hai conosciuto, un pensiero che hai fatto, però poi ci sono stati anche personaggi che ho, diciamo, ampliato, che mi sono stati proposti. Senti, entriamo un po' nel vivo dell'argomento. Hai studiato appunto teatro, sei approdata alla televisione, televisione di serie A, poi appunto, sì, come ho detto anche nella presentazione, il cinema, ma per quanto riguarda, diciamo, la tua carriera appunto di attrice anche comica, insomma, certo. Ti sei, diciamo, scontrata con un mondo, per esempio, maschilista, come ti sei rapportata il tuo essere comunque una ragazza, essere una donna, con, diciamo, il meccanismo della risata e della comicità, ecco? Ah, guarda, il fatto di essere una donna ha i suoi vantaggi, nel senso che ce ne stanno poche di donne comiche, quindi le vogliono tutti. Però il mondo maschilista non è un mondo, cioè quello di cui tu parli, questo mondo maschilista purtroppo non è solo competenza dello spettacolo, cioè, diciamo, la nostra società è più o meno impostata così, quindi una donna comica ha più o meno le difficoltà che può avere una manager o una che vuole fare politica, insomma più o meno il fatto che sei una donna un po' va a tuo discapito. Nell'immaginario collettivo il comico è un comico maschile, no? Infatti si dice comicità al femminile, vuol dire che devi specificare, perché una donna fa comicità al femminile, una donna fa comicità, è una donna e parlerà di donne, cioè non è che c'è bisogno di... Hai mai visto? Se c'è uno spettacolo fatto da due donne, si dice uno spettacolo tutto al femminile, ma non si dice mai uno spettacolo tutto al maschile, non si capisce perché si deve specificare al femminile e al maschile. Per me esistono i comici che fanno ridere e quelli che non fanno ridere, esistono quelli che vogliono far ridere, che in genere sono quelli che esagerano, che ci mettono le parolacce, eccetera, e quelli che fanno ridere. Queste sono le distinzioni che io faccio nella comicità, non certo il maschio e la femmina. Sicuramente una donna sboccata dà fastidio, quindi noi abbiamo avuto il limite e la fortuna di dover esplorare altri campi per far ridere. insomma, noi siamo tutte più misteriose a partire dalla nostra sessualità, noi siamo condannate a andare all'interno, diciamo, per trovare noi stesse. E per quindi... per te questo è un vantaggio, diciamo? Ma io, quelle poche donne comiche che conosco, che adoro, che ammiro, comunque hanno un livello di comicità pazzesco. Gli uomini ce ne stanno molti di più perché fanno ridere con le classiche quattro battute. Invece le donne vere, comiche, in genere sono meravigliose e hanno un immaginario un pochino più personale, no? Certo. Un pochino meno scontato. A parte i clan classici, che poi ci sono anche le donne comiche che si sono prestate alla religione e che parlano solo esclusivamente dei maschi, maschi, maschi e femmine, insomma quella roba lì, quella va su tutto, diciamo, quella è un, come si dice, un evergreen. Come il comico romano che parla del traffico. Del traffico, o della panza, o della pelata, insomma, ma ci stanno un sacco di... mia moglie, mia suocera, questi purtroppo sono temi eterni, insomma, purtroppo per fortuna. Ma senti, secondo te quando una donna comica si deve confrontare con grandi temi, temi che al di là della comicità da cabaret sfociano proprio nella satira, quindi anche satira, diciamo, di un certo livello, quindi sono temi che possono essere come, non so, per esempio il sesso, la religione, la morte, quindi fare battute su queste cose, scherzare su questi argomenti, secondo te una donna comica ha meno libertà di un uomo comico? Cioè, per esempio, penso al primo argomento, no? Ti ho detto il sesso. Una donna che parla di sesso, una donna comica, insomma, un'attrice comica che parla di sesso, ha meno libertà rispetto a un suo collega maschio. E però mi farebbe piacere sapere anche che ne pensi a proposito, per esempio, della religione. Insomma, Ma guarda, io credo che in realtà l'uomo apparentemente sia più libero, ma se vai a vedere, gli uomini vivono di luoghi comuni sul sesso. Non c'è un comico che ti illumina con una battuta. Quando si parla di sesso si va sui grandi classi, cioè proprio i luoghi comuni. La donna pure, cioè non, secondo me la differenza la fa sempre l'autrice o l'autore. Se questa donna ha delle doti autorali fantastiche, ha delle battute meravigliose, anche se parla di sesso e ne parla a modo suo, potrà funzionare. Se invece c'è un'attrice, una comica, lo stesso vale per un maschio, che per fare successo pensa che scrivere un pezzo sul sesso va bene su tutto, questo pezzo probabilmente sarà banale, poi la gente ride, è banale e rischia anche di essere abbastanza volgare, perché non esiste una qualità reale, cioè un punto di vista di questo. Ci sono dei comici maschi che sono bravissimi a scrivere la satira, ma non perché sono maschi, perché fa parte del loro DNA, della loro preparazione culturale, politica, del loro punto di vista, del loro talento, e questa è una cosa che prescinde dal sesso. Lo stesso talento può averlo una donna. Ci sono donne che non possono scrivere di satira perché non sono abbastanza preparate. Questo assolutamente, Paola. Ma ho avuto l'onore di far parte di una squadra specializzata nella satira, ho un po' imparato, però non penso che sia la cosa migliore che faccio. Io faccio una satira sociale, per esempio, piuttosto che politica, no? Certo. Non sono abbastanza preparata per fare delle battute piccanti, interessanti, originali, per avere, diciamo, capacità di sintesi. Quella capacità di sintesi che però aggiunge qualcosa a quello che tu già sai, no? Però tu insomma dici se la materia prima è buona, che è sia buona. uomo sì. O donna non importa, sì. Perché comunque sì. Arriverà lo stesso. E secondo te il pubblico, infatti, cioè io sono sicuramente d'accordo con te per quanto riguarda una parte del palcoscenico, cioè chi sta sopra il palcoscenico, ma per chi sta dall'altra parte, seduto, cioè il pubblico, secondo te lo recepisce in maniera uguale, se per esempio di sesso o di religione ne parla con molta libertà, così un uomo o una donna, cioè secondo te il pubblico... Io penso che se una persona è volgare, se un maschio o una femmina, ma non conosco nemmeno queste donne che proprio vogliono parlare in modo sboccato di sesso, devo dire la verità, cioè noi ci facciamo sempre il problema, ci pensiamo tre volte prima di una parolaccia, perché comunque prima di tutto dà fastidio a noi, cioè quando usi la parolaccia la devi usare perché non ne puoi fare a meno. Se tu appena dici una parolaccia tutti ridono, però è una scelta di gusto che fanno la gran parte delle donne, non è un limite. Io non ho conosciuto delle donne che rosicano perché non possono dire le parolacce, capito? Non le ho conosciute in queste. Non è questo il problema, ecco. Senti Paola, diciamo, per fare alcuni nomi di colleghi, da Virginia Raffaele a Paola Cortellesi, passando anche, non so, per Caterina Guzzanti e tante altre tue colleghe, diciamo, le donne comiche che si cimentano appunto nella comicità non hanno nessuna remora però a mostrarsi come, diciamo, come donne di aspetto piacevole. Sono sicuramente, i nomi che ho fatto sono degli esempi, ma ce ne sono tanti altri, come belle donne, o a giocare per esempio con la propria femminilità o il proprio corpo anche. Però una volta c'è un luogo comune base sulla comicità, non era che il comico era brutto e chi era brutto era comico? Ma guarda, poi se nasci brutto pur di farti, diciamo, rende simpatico, è più facile che uno brutto faccia tutto per essere simpatico che un bellissimo che tanto appena muove gli occhi vanno tutte da loro, insomma, da lui, no? È normale, credo, che uno poi debba anche, insomma, confrontarsi con la verità. Cioè, se uno è brutto, in genere tende a essere più simpatico. Attenzione, però, questo è un altro luogo comune, quindi, che confermi, cioè che chi è brutto deve recuperare con la simpatia. No, sì, assolutamente. Io penso che, oppure gli uomini, per esempio, bassi, in genere hanno dei caratteri fortissimi, cioè che il fisico in qualche modo condiziona. Questo non vuol dire che se uno è simpatico poi è comico, perché il comico è un'altra cosa, cioè la simpatia è un suo amico, è simpatico, ma un comico è un artista, è uno che c'è il tempo comico, è uno che è un autore, è uno che ha capacità interpretative. Il comico è un'altra cosa. In questo, ecco, luogo comune che vorrei sfatare è che una persona simpatica sia poi necessariamente anche un comico. Sono due cose diverse. Invece sono molte persone che fanno i comici essendo solo persone simpatiche. Però insomma si è un po' mischiata, diciamo, la cosa. Però voglio dire, no, le donne possono essere comiche anche essendo belle donne. Naturalmente poi in questo mercato, se sei carino è meglio per tutti. Se sei carino nella vita in generale, se sei carino è meglio. E quindi questo se è sei vero, una donna. Ma mi incuriosiva però proprio questo, se nel mondo dello spettacolo, ovviamente, se sei nella vita in generale, nel mondo dello spettacolo in maniera particolare, visto che ci lavori col corpo, quindi se hai un aspetto piacevole, se hai insomma un bel corpo, un bel fisico, questo ti può sicuramente aiutare. Perché ti facevo questa domanda? Perché nelle leggi della comicità, invece, da sempre è forse l'unico spazio nella vita dove un pochino questa legge viene sovvertita, cioè che in realtà è sempre il brutto a far ridere, la cosa che non va, il contrasto che genera il meccanismo comico. Se uno è un figo pauroso, gli fanno fare il modello, se magari voglio fare il comico mi deve far ridere. Infatti io mi ricordo solo Walter Chiari, ecco, adesso forse c'è un fatto di Luigi che è carino, però no, ma allora la cosa che dici tu è vera, è giusta, però insomma la maschera, io parlo soprattutto, per esempio Luciana Littizzetto è stata una donna straordinaria che ha saputo imporre la sua normalità, è diventato un punto di riferimento per le donne, anche perché non si nasconde, è quasi rassicurante la sua immagine di donna di successo, intelligente, non bella ma simpaticissima, cioè la ami perché non è perfetta, no? Lei quindi ha fatto veramente un grandissimo lavoro anche nell'immaginario italiano culturale, e per me lei è veramente un punto di riferimento. Poi ci sono tante comiche, per esempio la Letizietto scherza molto sempre, no? Scherza sempre sul suo aspetto, fa sempre battute, soprattutto quando magari Fazio invita qualche bell'attore di Hollywood, ne abbiamo avuto insomma pochi giorni fa ne abbiamo avuto degli esempi, che c'era ospite George Clooney e Matt Damon, e lei ovviamente fa tante battute su se stessa, cioè fa dell'autoironia un punto di forza, per esempio. Un punto di forza, certo. Guarda, tu hai detto, io non credo che una donna debba necessariamente essere brutta. Io appunto ho lavorato tanto con Emanuela Grimalda, che è un'artista meravigliosa, una bellissima donna, dotata di intelligenza, sex appeal, eccetera. Federica Cifola, appunto, è una bellissima ragazza. Non credo che debba essere brutta. Diciamo che le persone che stanno in platea non si aspettano che una donna piacente possa far ridere, e così come non si aspettano che una molto bella possa fare delle gag, cioè non, però questo, questo crea un mix molto molto interessante, perché naturalmente è incredibile che una bella donna, siamo talmente abituati che, a pensare che le belle donne non sono capaci di fare niente, che poi a me esce una con lo stacco di coscia che sta a fare due cose e tutti giustamente perdono la testa, perché ma perché c'è un malcostume. Però insomma io penso questo, che quando poi c'è del talento comico dentro un corpo, che sia alto, basso, bello, brutto, quando c'è il pensiero, quando c'è il talento, l'intelligenza, l'arte, questa persona funziona, funziona, che è bella, che è brutta, che è alta, che è bassa, eccetera. Penso anche che, appunto, come ti dicevo, le persone brutte, le persone non piacenti spesso devono sviluppare una qualità che può essere, per esempio, ti dico, gli uomini bassi in genere sono cattivi, hanno grosse personalità, eccetera, oppure sono simpaticissimi, quindi debbano compensare un po'. Sempre, c'è un meccanismo di compensazione. Però non è detto che poi dietro ci sia un talento, non è detto. Senti Paola, ma tu nella tua carriera hai fatto anche delle imitazioni, insomma, anche di personaggi politici. Sì. Il primo fra tutti che mi viene in mente, ovviamente, è Giorgia Meloni. Tu, quando bisogna imitare un personaggio, o quando, quindi un personaggio come in questo caso già esistente, o quando per esempio tu devi creare un personaggio come hai fatto, insomma, sono due cose diverse. Come nascono? Quali meccanismi ci sono dietro tra imitare un personaggio oppure crearne uno, insomma? Guarda, per quello che riguarda l'imitazione, a me è stato proposto di fare Giorgia Meloni in un piccolo programma che facevo su Sky. Io sono andata a vederla e ancora non era così famosa. Tra l'altro mi somiglia anche un po', ho pensato che potevo, mi sono messa lì a studiare il suo modo di parlare, cosa rappresentasse il suo personaggio politico, cosa mi faceva ridere, quindi abbiamo cercato poi una chiave con Marco Terenzi e l'ho trovata subito molto simpatica, cioè è molto umana la Meloni, quindi poi abbiamo trovato la chiave, trovata la voce, così insomma abbiamo scritto degli sketch. Invece i personaggi di fantasia nascono dalla vita comune, da, che ne so, Cosa 38 Kiss Kiss, questa tipa che parla di luoghi comuni, nasce dal mio desiderio di parlare di omosessualità, perché io ho un sacco di amici omosessuali che soffrono tutti di luoghi comuni, di gente che ancora pensa che sia una malattia, eccetera, è iniziato da questo pensiero. Poi ci ho messo 2-3 anni per svilupparlo, non è che ci ho lavorato 2-3 anni, però magari scrivi una cosa, poi passa un po' di tempo, poi lo devi fare a teatro, allora lo riscrivi, poi arriva la televisione, poi arriva la radio, insomma ogni volta è un passaggio in avanti e sviluppi un personaggio. La vecchia è mia nonna, la imito da quando sono piccola ed è decisamente un personaggio così. Il centro dimagrante il macchinario, che è stato il primo personaggio che ho fatto in televisione, mi sono ispirata da queste pubblicità che a un certo punto andavano molto di moda, c'era questo signor sobrino con i suoi macchinari e questa DCD, e vedevo queste pubblicità in cui delle povere persone dimagrite, effettivamente avevano perso chili e chili, ma erano avvilitissime, stavano lì trattate come le bestie e gli dicevano dai fai vedere quant'eri ciccione, e questi tutti vestiti di nero, avviliti là, che mostravano le cosce alla televisione, e prima nelle foto precedenti erano grassi ma erano felici, e poi soprattutto veniva fuori una cosa evidente, che poi quando ti sei dimagrito non sei diventato Claudia Schiffer, perché non basta dimagrire per essere belli, poi bisogna trovare se stessi, esplorare il proprio gusto, avere personalità, avere vitalità, questo ti rende bello, no? Invece questi venivano messi lì come delle bestie, ti giuro, tutti vestiti di nero, perché così il nero sfina, sembravano ancora più magri in televisione, una ricchezza allucinante. Quindi questo è stato, per esempio, quel personaggio nasce da una pubblicità. Guarda, poi preparandomi per la puntata, poi mi sono fatto anche una cultura su YouTube, insomma ne ho visti veramente parecchi, dalla giornalista rumena a Tinka. Oppure ho visto la sociologa con problemi di alcolismo. Sì, quella addirittura l'ho visto, quello ero a Sutri tanti anni fa, ma veramente molti anni fa, e vedo il pazzo del paese mezzo ubriaco che barcolla, che dice a un ragazzino che stava sullo skateboard di stare attento, perché sbatteva la testa, di stare attento a dove mettere i piedi. Lui non si reggeva in piedi perché era ubriaco probabilmente, e questa, e da lì poi è nata Giuditta Staboni Minaccetti. Ecco. Sì, che ha questo gesto di premura, di attenzione per gli altri, però già di per sé, insomma, sì, c'ha un problema. Oppure un altro personaggio, non mi ricordo adesso il nome comunque della donna che tende a presentarsi, eri con la Dandini. Tende la a manager. Sì, bravissima, perfetta, insomma, inappuntabile, moglie, mamma, sì, manager al lavoro, e poi finalmente quando arriva la sera che non la vede nessuno, uno che sta da sola con se stessa, appunto, si può sbragare totalmente, ecco. La donna manager nasce dal mio stress personale, nel dover vivere in un mondo in cui tutti ti chiedono di essere efficiente, vincente, di successo, e però poi dopo tu non vedi l'ora di tornare a casa e rilassarti, ecco. La donna manager è stata sintetizzata da me e da, io sono andata da Lillo a chiedere, insomma, di scrivere insieme questo pezzo. E insomma, insieme a Lillo è uscito fuori il tormentone di lei che si presenta, e poi dopo io so così, io torno a casa e so così. E devo dire, è un personaggio molto catartico, sia per me che lo faccio in teatro ormai da tempo, e anche per il pubblico. C'è una strana risata quando faccio questo personaggio. Le persone ridono in un modo diverso. Forse perché si identificano un po'. Sì, perché tutti si identificano, perché tutti siamo un po' stressati da questo punto di vista. E poi penso anche perché molti di noi, insomma, indossano, che poi è un po' la chiave per capire il tuo personaggio, cioè una maschera di tutti perfetti, perfetto manager, perfetta mamma, moglie, marito, eccetera, eccetera. E poi arriva la sera che siamo noi stessi, ci sbraghiamo con noi stessi. Quando rimaniamo con noi stessi, ci sbraghiamo. Senti, a questo proposito, ti volevo chiedere dell'apparire perfetti e insomma, dare una certa immagine di se stessi. Per essere comici, per lavorare nella comicità, ovviamente questa è una domanda prettamente rivolta a una donna, insomma, bisogna rinunciare un po' alla propria sensualità o si può comunque essere sempre lo stesso? Ma io penso che si può rinunciare, sai perché? Perché c'è talmente l'abitudine a pensare che una donna deve essere per forza sensuale 365 giorni all'anno, 12 ore al giorno e anche 12 ore di notte. Cioè, vedo talmente tante donne costrette continuamente a mostrarsi sempre solo dal punto di vista erotico, sessuale, donne che si vestono sempre aderenti, donne che sembra che noi, se non siamo sexy 24 ore al giorno, non andiamo bene. Quindi la comicità è una bellissima occasione per sedurre in un altro modo. Questo non vuol dire che una donna debba anche usare il proprio corpo per far ridere, no? Io ti ho detto, amo tutte attrici molto fisiche, in realtà nessuna ha un cattivo rapporto col proprio corpo e col proprio sesso, però anzi, è un modo un po' per liberarsi da queste maschere sempre imposte della donna bellina, la cosiddetta gatta morta, che io amo molto gli animali, ma le gatte morte non sono mai abbastanza morte, diciamo, ecco. Le vorrei ancora più morte. Ma allora, però, io ti chiedo, ma perché una donna invece spigliata dalla battuta pronta, che padroneggia diversi argomenti e risponde a tono, fa paura? Che ne so. Che ne so, non lo so, questo non lo so, questo me lo devi dire tu, io non lo so, non so nemmeno se fa paura, cioè dipende, se fai paura a chi? Chi fai paura? Beh, diciamo che è sempre, si rimane, per quello che dicevi anche tu prima, si rimane sempre un po' spiazzati quando prima accennavi al fatto che una persona di bell'aspetto, una donna di bell'aspetto, magari dice o fa delle cose, tutti rimangono, questo sa fare anche questo. Vale anche per i maschi. Assolutamente. Ancora di più per le femmine. Assolutamente. Senti, ma tu come attrice, cioè, hai qualcuno, segui qualche comico in particolare, qualche comico o qualche collega in particolare, magari nella scena sia nazionale, ma guarda, io ti chiederei anche magari nella scena romana se hai qualche preferenza o qualcuno da segnalarci, magari da seguire nei prossimi mesi. Ma io, se fossi a Roma in questi mesi, seguirei senz'altro Saverio Raimondo, che anche appunto è stato, abbiamo anche collaborato per la scrittura, è un bravissimo satire man ed è una persona intelligente, fa molto ridere, propone delle battute, una comicità tutta sua, un po' stile inglese, molto quindi elegante però ferocissimo, e quindi lui lo consiglio perché lo conosco e perché sono andata a vedere tanti suoi spettacoli. Poi consiglio Antonio Rezza, per chi non lo conoscesse, ma chi è che non conosce Antonio Rezza? Antonio Rezza penso è un genio, veramente. È un genio che insieme a Pina Bausch e a Charlie Chaplin fa i suoi spettacoli. Ecco, la differenza tra Pina Bausch, Charlie Chaplin e Antonio Rezza è che Antonio Rezza è italiano ed è vivo, quindi si può ancora andarlo a vedere a teatro, perché Antonio Rezza, perché vive in Italia, non è ancora, diciamo, non ha ancora un monumento qui a Roma tutto per sé, perché è nato in Italia, perché lui è assolutamente un genio. Io cerco sempre di non perdermi i suoi spettacoli, perché ogni volta... Ma recentemente a Roma, tra l'altro, sì, ha riproposto, li ho visti tutti, certo, un'antologia. Sì, l'ho visti. Senti, invece un nome di collega, proprio collega donna, che ti fa particolarmente ridere, che la segui con piacere? Guarda, allora, che mi fa ridere... Allora, io devo fare una distinzione, scusa, però ci sta la comicità televisiva, la comicità cinematografica, poi ci sono le attrici comiche, le maschere. Io... ti dico che di tutto un po', cioè mi piace la Raffaele, mi piace tantissimo Emanuela Grimalda, mi piace Carla Signoris, adoro Carla Signoris, mi fa ridere, mi fa piangere, penso che sia un'attrice meravigliosa, mi piace la Cortellesi, ti ho detto la Littizzetto, insomma, di queste loro, insomma, tutte in modo, ognuno a suo modo mi fa ridere, no? Perché ognuna ha una specialità. Io, ecco, un altro luogo comune è che un comico televisivo sia necessariamente un attore cinematografico, o che questo per esempio per me è un luogo comune. Non è detto che un attore che è tanto bravo in TV e tanto famoso poi sia necessariamente un bravo attore, questo certo. Non vuol dire certo. Però queste sono le leggi del mercato, siccome sei famoso poi diciamo che più o meno vai bene su tutto, però ognuno a suo modo portano qualcosa nella mia vita, insomma mi fanno ridere, ecco, tanto. Paola, senti, è arrivato il momento di, come ogni puntata, di confermare o smentire con una risposta secca, insomma, o almeno sì. Quasi secca, insomma, sì. Il luogo comune che si tratta durante la puntata stessa, il luogo comune sì. Che abbiamo trattato oggi era: per una donna è più difficile far ridere, secondo te? Sì. È diplomatica come risposta. Beh, sì, per alcune cose, no per altre, quindi vi dico ni. Ok, va, allora bene, dai, accettiamo il tuo ni e insomma speriamo di riaverti come ospite per qualche altro luogo comune, insomma, così ci avremo un po' più tempo per argomentare, diciamo, questo tuo ni. Per il momento ti ringraziamo per essere stata nostra ospite. Grazie a voi. Ciao. E ringraziamo Paola Minaccioni per essere stata nostra ospite. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Luogo Comune. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a visitare il sito www.radiocittaaperta.it per essere sempre aggiornati su tutte le iniziative della radio. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta, oppure su Twitter digitando @luogoc, oppure scrivete una bella mail a luogocomune.radio@gmail.com. Da Luogo Comune è tutto, l'appuntamento è per venerdì, di solito dico domenica, ma da questa volta in poi segnatevelo, venerdì alle ore 13.30 è il nuovo appuntamento con Luogo Comune, quindi venerdì 13.30, sempre sugli 88.9 di Radio Città Aperta. Da Valentino De Luca, un buon venerdì, ciao!